pelle non mi piace questo mondo che non vuol la fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amar la bimba mia. Ma con un poco di felicità, ballando rock. Io sono ribelle, non mi curo del denaro, vivo come un bel signore. Io sono ribelle, ma sincero, non è vero che non abbia un po' di cuore. La mia chitarra piangere mi fa, ballando rock. Mi piace la velocità, sono un frenetico del jazz. Vorrei ballar perché se sono io sono ribelle, non mi piace questo mondo che non vuole la fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amar la bimba mia. Ma con un po' di felicità, ballando rock. Sono un frenetico del jazz. Vorrei ballar perché sento rock. Io sono ribelle, non mi piace questo mondo che non vuole la fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amar la bimba mia. Ma trovo un poco di felicità ballando rock. Ballando rock, ballando rock.